Prima edizione. 6, 17 minuti e 20 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Allora diamo un'occhiata ai quotidiani che trovate oggi in edicola e anche un'occhiata a quello che scrivono i quotidiani esteri sui loro siti internet. Iniziamo da quelli italiani, iniziamo dal Sole 24 Ore oggi. Ci sono parecchie cose interessanti, oltre naturalmente al titolo principale dedicato a Moody's, all'apertura dedicata a Moody's, anche Moody's declassa l'Italia. Questo è il titolo, Berlusconi, decisione attesa, e poi il titolo anche nel sommario si parla anche di Tremonti. Tremonti, Spagna meglio di noi, vanno a votare. Da segnalare che in prima pagina c'è l'editoriale del direttore Roberto Napoletano, se l'Italia rischia l'effetto balcanizzazione, questo è il titolo, e anche un commento più relativo al downgrade di Isabella Bufacchi, che dal titolo Fiducia da ristabilire. Altre cose da segnalare dal Sole 24 Ore di oggi: un'inchiesta a firma di Mariano Maugeri e Giuseppe Oddo che riguarda la regione Lombardia. Il titolo è Molti affari e pochi controlli nella regione. E di taglio basso, oltre al titolo sui mercati, anche un pezzo a firma di Claudio Gatti: volano i CDS, i credit default swaps, ossia quella sorta di assicurazioni sul rischio di fallimento di un emittente di debito. Volano i CDS di Morgan e delle banche americane, quindi un segnale tutt'altro che positivo. Il Sole 24 Ore che presenta ancora oggi una serie di pagine dedicate alla crisi dell'Eurozona, al rischio recessione, anche con delle guide al risparmio. Il Corriere della Sera, anche qua l'apertura è su Moody's. Italia, un'altra pesante bocciatura, il titolo. Moody's declassa il debito di 3 livelli, Palazzo Chigi dice scelta attesa. Anche qua l'editoriale è del direttore Ferruccio De Bortoli, si intitola Il sipario strappato, conseguenze di una condanna, e parla proprio appunto delle agenzie di rating. C'è da segnalare sul Corriere della Sera un'intervista a Marina Berlusconi a firma di Daniele Manca. L'intervista è Marina Berlusconi che dice: mio padre non mollerà. A centropagina il titolo che riguarda la vicenda di Barletta, morte per 4 euro l'ora. Il Napolitano che dice una sciagura inaccettabile. E poi un titolo con una foto di Amanda Knox via da Perugia, insomma sull'aereo per Seattle, e il titolo è Perugia, Alfano attacca, le toghe non pagano mai. La Repubblica, anche Moody's declassa l'Italia, questo il titolo. Anche qua a centropagina una foto di Amanda Knox le parole della stessa Knox che dice: prima o poi ritornerò, ora vado a riprendermi la mia vita. E c'è anche spazio per Alfano, per le parole di Alfano. Anche qua il titolo a centropagina su Barletta, sono morte per 4 euro l'ora. Da segnalare il pezzo a firma di Fulvio Bianchi e Alessandra Longo di taglio basso, rivoluzione calcio in TV, sia le schede straniere, sull'accoglimento di un ricorso presentato da una cittadina alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Le partite non sono opere di ingegno e quindi devono circolare liberamente all'interno delle comunità, senza che i paesi della Comunità Europea, senza che i paesi possano limitare le licenze. Una decisione che viene definita rivoluzionaria. La Stampa, l'apertura è Amanda torna a casa, Alfano, nessuno paga per errori giudiziari. Anche se il titolo forte naturalmente è su Moody's che declassa l'Italia, tagliato il giudizio sul debito, Berlusconi era una decisione attesa. Taglio basso la storia, oltre che a centropagina ancora naturalmente la vicenda di Barletta. Di taglio basso a firma del direttore Mario Calabresi: è morta la donna che ha raccontato in un seguitissimo blog la sua lotta al cancro, addio Annalisa, coraggioso faro di vita, questo il titolo. Il titolo del Messaggero è Moody's declassa l'Italia, il titolo di apertura del Messaggero. Debito, nuovo taglio del rating, le prospettive sono negative. Poi Appena sotto un pezzo dedicato alle parole di Giulio Tremonti, che poi approfondiremo più avanti, e vedremo anche di dare un'analisi, cercare di capire che cosa voleva dire il ministro dell'economia, per così dire. Centro pagina: le donne morte nel crollo lavoravano per 4 euro l'ora, e una storia tutta romana: due bimbi cadono sul bus, aggredito l'autista dell'ATAC, che è l'azienda di trasporti romana. A causa di una, i bambini sono caduti a causa di una frenata di troppo, e il padre appunto ha picchiato l'autista del 12. Di taglio basso, sempre a Roma: Roma stoppa sit-in e cortei, si comincia da piazza Navona e Trevi, piazze storiche protette. Questo per quanto riguarda i quotidiani italiani. Veniamo a dare un'occhiata ai siti dei giornali esteri, che cosa scrivono, che cosa ci troviamo. Il New York Times dedica l'apertura a Chris Christie, il governatore del New Jersey, che ha deciso di non partecipare alle primarie repubblicane nonostante le preghiere da parte di molti. Che cosa è successo nelle ultime settimane per quanto riguarda le primarie repubblicane? Che c'è stato un netto calo di Rick Perry, e Chris Christie veniva dato nei sondaggi in un testa a testa con Obama. Gli è stato chiesto di scendere in campo, per così dire, ma Christie non ha voluto, ha detto che vuole completare il suo mandato da governatore. Ma spazio anche ad Amanda Knox: c'è la foto e l'arrivo a Seattle certamente, ma anche un bel racconto su come la famiglia di Amanda Knox ha gestito mediaticamente la vicenda. Perché immediatamente, subito dopo l'arresto, il padre ha deciso di assumere, racconta il New York Times, un'azienda di pubbliche relazioni specializzata nella comunicazione di crisi, e di qui si dipana tutto il racconto del New York Times, che vi consigliamo di andare a leggere. Il Wall Street Journal si parla della possibilità che, tra l'altro ve l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il taglio dei rimborsi ai creditori della Grecia possa essere più ampio del previsto, ed è in questa direzione che l'Europa si sta muovendo. Il Financial Times, sempre in merito alle questioni che riguardano la crisi, racconta di un piano per salvare le banche europee. I ministri europei si starebbero coordinando per varare delle operazioni di ricapitalizzazione degli istituti di credito. Va detto che naturalmente sullo sfondo c'è tutta la vicenda di Dexia, come sapete, che sta salendo alla ribalta della cronaca. La banca franco-belga ha in portafoglio 3 miliardi e mezzo di obbligazioni di Stato greche e 15 miliardi di obbligazioni italiane. Amanda Knox torna a casa per una nuova vita da milionaria e celebrità. Questo è il titolo che campeggia sul sito del Telegraph, quotidiano britannico, quindi la prende un po' da un'altra direzione rispetto a quelli americani. Si riporta, interessante come i giornali britannici riportino quello che sta emergendo anche per altri temi, per parlare di altri temi, dal congresso dei Tories. Il premier David Cameron si preparerebbe a fare nella giornata di oggi un appello ai britannici: pagate i vostri debiti, saldate quel che avete in sospeso tra mutui e carte di credito, questo serve, dirà Cameron probabilmente nella giornata di oggi, a salvare il paese. Un appello, a dire la verità, piuttosto curioso. Per quanto riguarda invece il Guardian, un altro grande quotidiano britannico, anche qua nemmeno ve lo diciamo, spazio al congresso dei Tories, spazio alle vicende di Amanda Knox, ma ci comunica anche il Guardian che potrebbe essere la volta buona per Bob Dylan. Dopo anni di nomination ai Nobel per la lettura, appunto questo potrebbe essere l'anno della vittoria. Vi diamo un altro paio di quotidiani, e vi diamo quelli spagnoli, proprio perché anche di Spagna e Italia parleremo tra poco. Il Mondo sta dedicando amplissimo spazio alla vicenda Knox, addirittura 3 o 4 titoli, e poi naturalmente spazio al downgrade per l'Italia. Anzi, addirittura per il paese diventa l'apertura. Il paese segnala anche che in Belgio, nelle more della vicenda Dexia, stanno anche arrivando finalmente ad un accordo sul nuovo governo. Prima edizione. Le 6:32 minuti 37 secondi è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. È la mattina del 5 di ottobre, vi parla Daniele Biacchessi. Oggi 5 ottobre la giornata mondiale dell'insegnante, noi vogliamo rendere omaggio a loro parlando di un bel libro scritto da Giusy Marchetta, un insegnante di 29 anni che per avere un incarico ha dovuto spostarsi da Napoli a Torino. Maria Piera Ceci l'ha intervistata. No, io penso che più che l'agna c'è rabbia. C'è quella rabbia che ti cresce un po' tutti i giorni e poi a un certo punto deve esplodere perché sennò non riesci più a vivere. Un licenziamento di massa al nord è un problema, al sud è una tragedia, ci hanno ucciso. Sì. Tu scrivi questo a pagina 29, insomma suona molto tragico, sembra un po' una guerra fra poveri, no? Quella che viene dipinta in questo libro. Sì, diciamo secondo me l'aspetto più tragico di questi anni, cioè il fatto che non si ragiona su come risolvere i problemi in modo che si possa ripartire con un sistema più giusto che riguardi tutti, ma si cercano delle soluzioni individuali, cioè noi cerchiamo di salvarci ognuno per conto suo e siamo destinati a fallire in questo senso. Tu hai cercato di salvarti andando a Torino? Esatto, chi non è riuscito a venire a Torino non si è salvato, quindi non ha lavorato quest'anno. E hai deciso di lasciare quasi definitivamente il sud oppure pensi di tornarci? Io desidererei tornare, ovviamente. Il problema è che non vedo le premesse per tornare. Ecco, tu descrivi anche la sensazione di essere guardata come una che ha avuto il posto quest'anno e quindi l'ha rubato a qualcun altro. Sì, diciamo questa è un'idea che ci hanno passato un po' per come si sono strutturate le graduatorie in questi ultimi anni, quindi un po' per come gli insegnanti del nord hanno fatto fronte comune contro chiunque arrivasse dal sud, come se venissimo veramente a scappare il lavoro, in realtà si trattava solo di un'espressione di quella tragedia che stava accadendo, cioè di rimanere senza nulla. Vi sentite un po' gli occhi addosso, no? Anche forse da parte degli altri insegnanti, da parte dei genitori. Viene da Napoli, magari fra 6 mesi siede una malattia e se ne va. Sì, sì, quello è perché noi siamo abituati adesso a mettere in discussione anche i diritti per cui abbiamo lottato. Adesso i diritti sono diventati privilegi e quindi li mettiamo in discussione. Nel tuo libro L'Iguana è l'unico modo per far star buono il ragazzo disabile che la protagonista ha in cura a scuola, no? Emma, la protagonista del tuo libro, ha questo ragazzo disabile da seguire, psycho viene definito, e l'unico modo per farlo stare buono è dirgli che l'iguana non vuole. Ecco, se tu potessi fare appello a quest'iguana, cosa non vorresti? Non vorrei che continuasse ad esserci questa fetta forte della popolazione che continua a vessare quella debole. Chi è questa parte forte? Tutti vogliono un contratto a tempo indeterminato. E non capisco cosa significa non riuscire a inserirsi lavorativamente in Italia. Era Italia in controluce, la prima edizione, oggi la seconda alle 13.30 su Radio 24. Minuti esatte, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Adesso, prima di andare a Moody's e alle parole di Tremonti, ci occupiamo di tecnologia, di innovazione, per parlare del nuovo iPhone. Buongiorno Enrico Pagliarini. Buongiorno. Sì, certo, meglio che Moody's. Sì, sì, comunque ci toccherà parlarne tra poco. Allora Enrico, ieri Apple ha presentato, grandissima attesa, speculazioni in rete di qualsiasi tipo, un altro presunto modello di iPhone perso in una caffetteria, sì, nel frattempo, sì. Poi alla fine non è l'iPhone 5 ma è l'iPhone 4S, però in realtà una grossa innovazione c'è. Sì, c'è sicuramente una grande innovazione, mi verrebbe da dire, come direbbero gli americani, come qualcuno ha detto, nessun wow announcement, nessun annuncio che ti fa dire wow, che bella cosa, perché effettivamente c'è stato un po' di delusione. Beh, prima di tutto perché sul palco, tra l'altro un palco più piccolo rispetto al classico, al Moscone Center a San Francisco, tutto a Cupertino nella sede della Apple, c'era Tim Cook, che era la sua prima, diciamo, uscita ufficiale dopo l'addio della carica di CEO, di amministratore delegato, di Steve Jobs. Tutti l'aspettavano almeno per vederlo un po' sul palco, ma non è arrivato. Insomma, Tim Cook ha presentato questo iPhone 4S che, diciamolo subito, arriverà in Italia il 28 ottobre, in tutto il mondo, cioè, o meglio in alcune parti del mondo il 14 di ottobre. Molte novità, tu dicevi, effettivamente software, perché di fatto questo 4S nuovo è guardandolo uguale a quello che oggi possiamo acquistare in negozio, ha naturalmente delle migliorie, un processore nuovo, una batteria migliorata, una fotocamera più potente, è stato risolto il problema famoso dell'antenna che prime volte non funzionava molto bene, ma la novità vera è questo assistente personale, che è di fatto una sorta di applicazione all'interno del telefono con il quale si può interagire parlando con linguaggio naturale, e almeno vedendo la presentazione sembra effettivamente una rivoluzione molto interessante. Non che sia una novità assoluta poter parlare con un telefono, ma pare che questo telefono capisca molto bene. Ad esempio, più che dammi le previsioni del tempo, uno può anche fare delle domande trabocchetto, tipo ho bisogno dell'ombrello nel weekend, e lui capisce. Sì, perché poi mi pare che l'esempio sia stato proprio questo, no? Sì. La domanda è: mi devo prendere il cappotto oggi? E lui capisce sei interessato alle previsioni del tempo, vuoi sapere magari che temperatura c'è. Quindi dovrebbe essere, diciamo, una componente tra capacità di riconoscere la voce, ma anche capacità di interpretare quello che tu dici. Tutto basato non solo su quello che c'è dentro il telefono, ma è una cosa che, diciamo, funziona grazie ad internet, grazie alle capacità di elaborazione di centri di calcolo che sono in rete. Quindi il telefono deve essere collegato alla rete. Tutto sviluppato da una società che si chiama Siri, che è stata acquistata nel 2010 dalla Apple, che sviluppa questa tecnologia. Non è l'unica, ma pare che questa tecnologia sia piuttosto sofisticata. Vedremo. Da quel che ho capito, versione italiana non c'è ancora. Per ora capisce solo l'inglese, il ragazzo. Il francese e il tedesco. L'inglese, il francese e il tedesco. Non capisce ancora l'italiano. Come i brevetti europei, in sostanza. Esattamente. Grazie Enrico. Grazie, buona giornata. Pagliarini, ti lasciamo al lavoro dei giornali radio e noi cambiamo argomento e parliamo di quel che accennavamo poco fa. Parliamo ossia del downgrade di Moody's, arrivato ieri intorno alle 10:30, 10:15, insomma ieri in tarda serata, ancora con la nostra Valeria De Rosa. Valeria, buongiorno. Ben ritrovato Simone, a te e a tutti i nostri ascoltatori. Qualche dettaglio in più, dunque, allora sono tre gradi di, tre notch come si dice in gergo, insomma, di downgrade, ci hanno tagliato via tre punti per così dire, perché? Ci hanno lasciato una sola a questo punto. Una A2, e possiamo dire che per quanto riguarda Moody's c'è proprio la definizione, una sola A, viene definito debiti di buona qualità ma soggetti a rischi futuri, ed è proprio qui il nodo della questione, perché l'Italia paga queste incertezze economiche e politiche che, dice Moody's, mettono a rischio il raggiungimento da parte del governo degli obiettivi di risanamento del bilancio. In più, scrive Moody's, più della metà delle misure di consolidamento sono basate sulla crescita delle entrate. A questo proposito, però, possiamo dire che, diciamo, spezziamo anche una lancia a favore del nostro paese. I piani, dice Moody's, sono vulnerabili per l'elevato livello di incertezza che c'è intorno alla crescita economica dell'Italia, ma ovunque nell'Unione Europea, quindi è un problema più generale. E poi c'è il problema del consenso politico, perché su questi tagli aggiuntivi alla spesa il consenso può essere piuttosto difficile da trovare. Quindi, come dire, come è accaduto per Standard & Poor's, però ci sono anche note politiche, insomma, appunto, da parte delle agenzie, sì. Perché questo lo ritengono, insomma, non perché siano giudizi politici, ma perché lo ritengono centrale dal punto di vista del rating. Assolutamente sì, tra l'altro dobbiamo dire che è vero quanto dice, quanto è trapelato dal governo, che questa decisione era comunque attesa, perché Moody's doveva decidere intorno alla metà di settembre, aveva poi rinviato la decisione oltre la metà di ottobre, arrivata quindi in anticipo, perché voleva capire qualcosa di più in merito a questa manovra e anche ovviamente a come si sarebbe comportato il governo nel suo interno per le decisioni future, perché è probabile che poi ci siano altri aggiustamenti da fare, e quel che ne è venuto fuori in questi 15-20 giorni evidentemente ha convinto Moody's addirittura ad anticipare la decisione del taglio sul giudizio del nostro paese. Allora Valeria, le reazioni che sono arrivate, quelle che sono filtrate e quelle ufficiali. Allora, intanto possiamo dire appunto che il governo, in una nota di Palazzo Chigi, ha fatto sapere che la scelta di Moody's appunto era attesa. Il governo sta lavorando con il massimo impegno per centrare gli obiettivi di bilancio pubblico. Il presidente del Consiglio avrebbe detto detto andiamo comunque avanti, si lavora sulle misure per la crescita e l'Europa ha approvato quello che stiamo facendo, quindi in qualche modo Silvio Berlusconi avrebbe detto va bene la decisione di Moody's, però l'Europa ci ha detto che andiamo bene così. Molto forte anche il commento dell'opposizione: secondo il Partito Democratico il declassamento è una mazzata, l'Italia è meglio di quel rating, ma detto Bersani, se non c'è un cambiamento la sfiducia rischia di tirarci a fondo. Tra l'altro ovviamente è molto atteso anche la reazione dei mercati questa mattina, intanto possiamo dire che Tokyo già perde lo 0,86% in questo momento. Grazie dunque alla nostra Valeria De Rosa per questi aggiornamenti sulla notizia arrivata ieri in serata. Buona giornata Valeria e buon lavoro anche a te. Grazie Simone, anche a voi. Prima edizione. Allora lei deve chiedere perché negli ultimi giorni lo spread di alcuni paesi è cresciuto enormemente. Alcuni paesi non ne parli mai e invece hanno magari in realtà, varia molto insomma. Il caso della Spagna secondo me dipende anche dall'annuncio di elezioni che di per sé sono una prospettiva di cambiamento e quindi un'apertura di futuro, no? Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani, buongiorno. Eccomi, buongiorno a voi. Allora, le parole di Tremonti le abbiamo sentite, vi riferiamo anche della smentita, insomma il portavoce che dice quando è fuori parla solamente di cose estere, non parla di cose italiane, quindi non prendetelo come un riferimento all'Italia. Lui stesso che dice, insomma, era una battuta, Brunetta che lo prende in giro e gli dice beh, insomma, ogni tanto anche ai professori come Tremonti ti scappa qualcosa di sbagliato. Detto ciò, insomma, c'è chi titola oggi sui giornali Tremonti ormai gioca da solo. Che ne pensi, Angelo? Ma il rebus Tremonti ci appassiona sempre, l'uomo sorprende, spiazza. In questo caso devo dire, anche avendo riascoltato grazie a voi le parole personali di Tremonti, mi sembra che stiamo montando una tempesta in un bicchiere d'acqua. Stava facendo l'analista in quel momento e quindi ha detto una cosa ovvia: quando Zapatero ha annunciato che andava a casa, che avrebbe favorito il cambiamento attraverso il voto, si è tutti detto questo è positivo perché la Spagna è incartata. Egli dunque ieri ha ripetuto un concetto che avevamo detto tutti qualche settimana fa. Non ci vedrei un grande giallo. E non ci vedresti nemmeno un'applicazione all'Italia della Spagna, cioè come dire, fa l'analista Tremonti, però alla fine il retropensiero è quello ed esce fuori anche se non lo vuole. Sì, si potrebbe traslare appunto, passare il ragionamento, passarlo all'Italia e dire dunque se vale per la Spagna anche per l'Italia la prospettiva di elezioni anticipate potrebbe essere positiva, ma anche qui il passaggio non può essere automatico perché ogni situazione va analizzata per quel che è. E io personalmente dico è vero che c'è un partito che tira per le elezioni. E questo partito si è infoltito dopo l'approvazione, dopo la raccolta delle firme, 1.200.000, e quindi il referendum alle porte se la Corte Costituzionale lo ammetterà. Circostanza sulla quale peraltro faccio osservare che Luciano Violante del PD proprio su Affari Italiani ieri ha detto di no, ha detto che la Corte Costituzionale non darà l'ok a questo referendum, quindi questa è una circostanza su cui meditare. E tuttavia il referendum ha velocizzato la corsa verso le elezioni, ne ha interesse Berlusconi perché ha il terrore di un cambio di legge elettorale, ne ha interesse Bersani perché vuole votare subito, se no rischia la sua leadership. Quindi due partiti corrono verso questo scenario. Angelo, quindi si vota a primavera secondo te alla fine? Noi abbiamo questa sensazione che si voti in primavera, anche se questa prospettiva salvifica io non la vedo affatto. Abbiamo dato ieri un sondaggio di Termometro Politico e sull'home page di Affari Italiani secondo cui vincerebbe la sinistra ma non avrebbe la maggioranza al Senato, quindi dalla padella alla brace. Assolutamente, ci troveremmo di fronte ad un paese ingovernabile. Grazie dunque ad Angelo Perrino, direttore di affariitaliani.it, il sito appunto è www.affariitaliani.it dove trovate anche le cose delle quali poco fa ci parlava. E noi andiamo alle anticipazioni della rassegna stampa. Alessandro Milan, buongiorno, eccolo, buongiorno, eccolo qua, eccolo qua. Che eccoci. Cosa? Ma cosa ovviamente hai? C'è tutto quello di cui avete parlato finora, la vicenda Tremonti, eccetera. Pare che Berlusconi abbia detto, secondo Libero, alla frase di Tremonti, ma questo è un messaggio mafioso. Questo però pare su Libero, che è abbastanza ben informato. Insomma, pare un Berlusconi abbastanza arrabbiato nei confronti di questa uscita di Tremonti. E non sarebbe la prima volta. Non sarebbe la prima volta. Insomma, si sa che si va sempre a vedere il termometro dei rapporti tra Tremonti e Berlusconi. Comunque, tu Simone sai cosa succede il 5 dicembre? No, intanto è il mio compleanno e quindi vergogna perché tu non lo sai. Dopodiché, più seriamente... Oggi ne parla la stampa, sconta definitivamente la pena e uscirà dal carcere Erika. Quando si parla di Erika non c'è bisogno in Italia spesso di aggiungere chi sia Erika e Omar del massacro di Novi Ligure. 97 coltellate alla madre e al fratellino, esce, è già in una comunità di Donmazzi e oggi la stampa ne racconta, insomma, questi ultimi mesi prima della libertà definitiva, con annesse polemiche ci saranno al solito, no? Ovviamente. 10 secondi per un qualcos'altro. A Foggia, rapinato 23 volte, mette un cartello: pregasi non rapinare più oppure licenzio tutti, perché devo chiudere questo un titolare Baracca. Di un supermercato. Grazie dunque ad Alessandro Milan, che ritroviamo tra poco. Grazie a Peter Bescapè in regia, Laura Faggin in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci risentiamo tra poco con il giornale radio.